secondo i cristiani, i pagani, i cosiddetti pagani, prestavano vanamente a questi idoli di marmo, di pietra o di terracotta. Quindi sarebbe nato tutto da lì, da questo re che si era fatto fare la prima immagine, anche lui si era fatto fare un'immagine del figlio, l'adorava a tal punto che questa è l'origine dell'idolatria. Ma altri aspetti interessanti ci sono in questo racconto. I miti, come già abbiamo detto altre volte, non sono solo racconti belli, racconti da ascoltare, racconti interessanti da leggere, sono anche racconti pieni di significato, cioè rivelano degli atteggiamenti profondi, dei modi di pensiero che si celano dietro questi racconti. Ed è estremamente importante qui nella nascita della prima immagine il fatto che sia praticamente calcata su un'ombra. Cioè senza l'ombra, questa immagine, l'ombra del ragazzo, questa immagine non esisterebbe. Che ci sta a fare l'ombra qui? Beh, diciamo, sul piano pratico ci sta per suggerire al vasaio la silhouette del ragazzo, ma se andiamo un pochino più sotto il piano, diciamo, più banale del racconto, vediamo che costruita a questo modo, l'immagine di Butade è come se trattenesse una parte del suo referente, come si chiama, una parte della persona che è stata ritratta. Come dire, fra l'originale, la persona viva, e la sua immagine c'è un mediatore, e questo mediatore è l'ombra. Ora, l'ombra, nella cultura antica, e non solo in quella antica, ha una serie di significati estremamente interessanti. È quella che i greci chiamano la schia e i latini chiamano appunto umbra, da cui la nostra ombra. E sull'ombra ci sono tantissime credenze antiche appassionanti, ma che tutte quante però ruotano attorno a questa idea che l'ombra sia una parte della persona che la proietta e che non si possa maltrattare un'ombra, per esempio, e che l'ombra sia addirittura per certi aspetti la parte più viva, più vitale, più autentica della persona. Ecco, per esempio, si diceva che gli stregoni, così dice Proclo, gli stregoni solessero fare i loro sortilegi sull'ombra. Perché sull'ombra? Perché è una parte della persona sulla quale si può intervenire senza che la persona se ne accorga, ma nello stesso tempo in qualche modo colpendola. Addirittura Plinio, che racconta sempre delle storie anche un po' curiose, un po' singolari, diceva che secondo i magi di Persia, cioè questa casta sacerdotale che era in possesso di una sapienza arcana e molto importante, non si doveva orinare sull'ombra, perché questa era come una forma di dispregio, ma anche di influsso malefico sulla persona. Anche nel mondo cristiano ci sono altre credenze simili, per esempio negli Atti degli Apostoli si dice che si portavano in piazza dei malati, dei paralitici, delle persone sofferenti, perché su di essi si posasse l'ombra di Pietro. L'ombra di Pietro evidentemente è l'ombra di una persona considerata santa e quindi come tale quest'ombra ha la capacità di guarire. Al contrario, si credeva che coloro che entravano nel santuario di Zeus Lycaios, un santuario arcadico nel recinto sacro, perdessero l'ombra, e altri, ecco, dicono che in quello stesso santuario non solo si perdeva l'ombra, ma si perdeva addirittura la capacità di generare. Quindi è come se tra l'ombra e la virilità della persona, quindi la forza generatrice, la forza più autentica della persona, ci fosse una relazione. E del resto, tra le formule che si usano per parlare con estrema discrezione del concepimento di Maria, si dice anche che il Signore adumbravit eam, cioè la adombrò, in qualche modo depositò la sua ombra su di lei, sempre alludendo a un potere, un significato particolare di questa ombra. la storia dell'ombra, che, come dire, sarebbe una delle storie più appassionanti e forse anche più lunga da scrivere, dall'antichità alla modernità, certo contempla nella letteratura tedesca dell'Ottocento un piccolo capolavoro, che è quello di Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihl. Questo Peter Schlemihl, che è un personaggio il quale si vende la sua ombra in cambio di danaro, in cambio di ricchezza, di benessere, di potenza, ma a questo punto però, essendo un uomo senza ombra, è costretto a fare una vita nascosta, è quasi sfuggito dagli altri, e lui deve nascondere questa sua privazione. Perché? Perché chi è senza ombra, che qui entriamo ancora in un altro capitolo di questa straordinaria, ombratile, evanescente creatura che è l'ombra, chi è senza ombra è sospettato di essere un diavolo, un demone, un essere in qualche modo soprannaturale. Il diavolo non proietta ombra, come non proiettano ombra i morti, e come persino, diciamo, dal folklore cinematografico lo si apprende, neppure i vampiri hanno ombra, immagine, cioè tutti coloro che non hanno una vera e propria consistenza corporea non hanno neppure ombra. Ed ecco perché diciamo, i giochi dell'ombra culminano nel mezzogiorno. Mezzogiorno che è ritenuta un'ora difficile, un'ora persino pericolosa, perché col sole a picco l'ombra non viene proiettata, e quindi è il momento in cui facilmente demoni e uomini possono mescolarsi, si possono fare brutti incontri nel mezzogiorno. Si pensa in genere alla mezzanotte come l'ora più pericolosa, e lo è nelle credenze, ma lo è anche il mezzogiorno per un motivo opposto alla mezzanotte: l'eccesso di luce che cancella le ombre e quindi rende tutti indistinguibili fra loro. Insomma, la presenza dell'ombra fra il ragazzo amato dalla figlia di Butade e la sua immagine è una presenza assai rivelatrice e importante. In realtà quel ritratto, come dirà Ovidio in una circostanza di cui parleremo fra un momento, quel ritratto vale più di quello che appare, vale più del suo sembiante. Perché? Perché là dentro c'è una piccola parte della persona da cui è stato tratto, esemplando la quale si è prodotta questa immagine. E questa creazione del rimpianto, questa creazione che tende a colmare un vuoto, è come un'ombra della persona che se n'è andata. Un'altra storia legata alle immagini, a quello che sono le immagini nella cultura e nella letteratura, e soprattutto al significato dell'immagine nei confronti del desiderio, noi l'abbiamo da un altro mito ugualmente malinconico. Beh, è interessante questo, sembra che le immagini si leghino di preferenza a miti dove sta della malinconia e talora della tragedia. Il mito in questione è quello di Protesilao e Laodamia. Protesilao era un giovane guerriero greco il quale non aveva colto una profezia, non aveva colto un oracolo. Un oracolo, infatti, aveva detto che quando i greci fossero partiti per la loro spedizione verso Troia, il primo guerriero che avesse posato il suo piede sul territorio troiano sarebbe morto. Fu Protesilao, che era il marito di Laodamia, una giovane bellissima fanciulla che aveva sposato subito prima di partire, fu Protesilao a porre il piede per primo sul territorio troiano e venne ucciso, secondo l'oracolo. Su questo mito del primo che tocca il litorale, no? Che è un mito che poi, come dire, centrato su un tema che altre volte si incontra nei racconti mitici o nei racconti di folklore: la prima persona che incontrerai dovrai fare questo e questo, eccetera. No, quindi il primo che posa il piede sul territorio troiano. Intorno a questo mito si costruirono anche delle varianti curiose. Addirittura si raccontava che il padre di Protesilao avesse messo accanto a lui quello che i greci chiamavano un omnemon, un ricordatore, cioè uno schiavo che aveva il compito di ricordargli non mettere per primo il piede sul lido di Troia, cioè che gli avesse il compito di ricordargli l'oracolo. Però che cosa accadde? Che questo omnemon

bist du selber in dir fühlen und hast du auch du so ist er immer so